alto degli ultimi 6 anni, inflazione nella zona euro al 2-3%. In corso a Stoccolma il vertice dei paesi donatori per la ricostruzione del Libano. Beirut chiede 500 milioni, ma i danni potrebbero superare i 15 miliardi di dollari. Il presidente iraniano ribadisce: sul nucleare non cederemo di un passo. Oggi scade l'ultimatum delle Nazioni Unite. Buon pomeriggio dalla redazione. È in corso il Consiglio dei Ministri che vede il ministro Padoa-Schioppa protagonista nella illustrazione delle linee guida della manovra finanziaria per il prossimo anno. In diretta da Palazzo Chigi, Andrea Viali. Sì, la riunione è in corso ormai da più di 3 ore. Il governo inizia oggi a definire gli interventi che entreranno a far parte della finanziaria per il 2007, una manovra la cui entità è scesa da 35 a 30 miliardi di euro e cui obiettivo principale è quello di riportare il deficit sotto il 3% entro il 2007, come ci chiede l'Unione Europea. Il governo punta a farlo con interventi strutturali, non quindi con misure una tantum. Dei 30 miliardi previsti dalla finanziaria, circa la metà dovrebbe andare a misure a sostegno dello sviluppo, il resto invece a misure per la riduzione del deficit, tagli nei settori della pubblica amministrazione, della sanità, dove si parla ad esempio all'introduzione di ticket per i ricoveri, ma anche della previdenza, dove tra le ipotesi c'è quella di un innalzamento dell'età pensionabile. Misure di cui il governo sta discutendo in questo momento, mentre nella prima parte della riunione il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto che contiene la riforma del risparmio. Secondo quanto si apprende, il provvedimento prevede novità come per quanto riguarda il funzionamento del CICR, che è il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio. Al momento da Palazzo Chigi è tutto. Grazie ad Andrea Viali. Il vice primo ministro di Israele Shimon Peres è arrivato in mattinata a Roma. Tra poco incontrerà a Palazzo Chigi il presidente del Consiglio Romano Prodi. Ed è ancora scontro intanto tra i poli sul conflitto di interessi. Il governo ha intenzione di modificare a settembre la legge Frattini. All'ombra della TV si infrange la Pax Agostana e basta evocare il conflitto di interessi e le nomine Rai che i toni concilianti cedono il passo a vecchi scontri. Il 13 arriverà in Commissione Affari Costituzionali la proposta di legge Franceschini-Violante che prevede tra l'altro il trasferimento a una gestione fiduciaria dei patrimoni immobiliari oltre i 10 milioni, pena la rimozione dalla carica pubblica o la revoca della licenza in caso di attività imprenditoriale. Contemporaneamente però anche Palazzo Chigi starebbe mettendo mano ad una bozza affidata al ministro Chiti. Vendita dei beni solo nei casi straordinari sarebbe il fulcro del provvedimento che la maggioranza tenta in ogni modo di svincolare dal nome di Berlusconi. Ma le molteplici assicurazioni non sarà contra persona, ma ripetono in coro, non evitano alla Casa delle Libertà di gridare ad un assalto contro l'ex premier. E mentre nelle dichiarazioni la bagarre infuria, nei retroscena un accordo di maggioranza sul conflitto di interessi sembra in realtà più lontano. Filtrano piuttosto le indiscrezioni sulle nomine Rai e puntuale il portavoce di Berlusconi attacca. Il governo si prepara ad occupare la Rai. Raffaella Calandra, GR24, Il Sole 24 Ore, Telese. Forte aumento dei prezzi alla produzione industriale che sono cresciuti a luglio del 6,9% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso e dello 0,9% rispetto a giugno 2005. Lo comunica l'Istat precisando che la variazione tendenziale è la più alta dal giugno del 2000. L'Istituto Nazionale di Statistica ha comunicato anche i dati relativi alle retribuzioni, cresciute a luglio del 3% rispetto allo stesso mese dello scorso anno e dello 0,5% rispetto a giugno. Altri dati economici arrivano da Bruxelles. Secondo la stima flash fornita da Eurostat, l'indice annuale di inflazione nei paesi della zona euro scende in agosto al 2-3%. Il dato definitivo sul costo della vita in Eurolandia nel mese di agosto sarà reso noto il 15 settembre. 2.500 auto bianche in più, 450 nuove licenze e tariffe fisse da e per gli aeroporti. Sono questi i punti principali dell'accordo firmato ieri a Roma tra Comune e tassisti, al termine di un confronto durato quasi 12 ore. Dal 15 settembre si pagheranno 30 euro per Ciampino e 40 per Fiumicino. I proprietari dei taxi effettueranno inoltre turni integrativi anche utilizzando sostituti alla guida e dipendenti. E mentre nella capitale l'avvertenza è risolta, a Milano ancora si tratta. una serie di incontri tematici tra comune e taxisti per risolvere i nodi principali aperti dal decreto Bersani, ma solo in parte gli accordi di Roma possono essere un modello per Milano. Edoardo Croci, assessore comunale ai trasporti. È un po' diverso il caso romano dal caso milanese, nel senso che lì era già deciso un aumento del numero di licenze. Noi sin dall'inizio abbiamo detto che più che sulle licenze puntiamo sul secondo guidatore. C'è un tavolo a cui si metterà il tema tariffa fissa, si valuterà qual è la tariffa media attuale, certamente non può essere più cara alla media, ma deve essere meno cara una tariffa fissa, con tutti i dati alla mano si negozierà. In questo caso diciamo che l'esempio romano invece può essere propedeutico a fare la stessa cosa a Milano. E sul merito degli interventi si registra una cauta apertura dell'associazione di categoria, Raffaele Grassi, presidente del sindacato artigiani taxisti milanesi. Sono tutti temi che noi siamo pronti ad affrontare, evidentemente bisogna trovare per ogni intervento la misura, e non necessariamente tutti questi interventi debbono essere applicati in una botta sola. C'è da fare un ragionamento su come allungare o su come intervenire, visto, come dice il decreto, in termini di turni aggiuntivi, quando servono, in che occasioni servono. Andrea Bovio, GR24, Il Sole 24 Ore. E ora andiamo all'estero. I 5 paesi membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e la Germania si riuniranno la prossima settimana per avviare le discussioni sulle sanzioni contro l'Iran in tema di energia nucleare. Da Teheran sono arrivati anche oggi segnali negativi a poche ore dalla scadenza dell'ultimatum fissato dall'ONU per la sospensione delle attività di arricchimento. Nessun passo indietro. Continua la sfida dell'Iran sul nucleare. Il presidente Ahmadinejad ha ribadito che il suo paese non indietreggerà di un centimetro di fronte a quelle che ha definito intimidazioni, nemmeno davanti alla prospettiva di un'aggressione, ha precisato. In un discorso pronunciato nell'Azerbaigian occidentale, il leader di Teheran ha persino rincarato la dose. L'Occidente, ha detto, deve sapere che la nazione iraniana non cederà alle pressioni e che non accetterà alcuna violazione delle sue prerogative. Parole pronunciate non in un giorno qualsiasi, ma a poche ore dalla scadenza imposta dall'ONU a Teheran per fermare l'arricchimento di uranio. Da domani, insomma, l'oltranzismo iraniano potrebbe essere punito, anche se l'Unione Europea continua a dirsi disponibile al dialogo al fine di evitare un nuovo conflitto. Anna Rita Lambrosio, GR24, Il Sole 24 Ore. Almeno 22 bombe sono esplose quasi simultaneamente dentro o vicino a banche commerciali nella Thailandia meridionale, provocando la morte di 2 persone. Nella zona gli insorti musulmani hanno ingaggiato una sanguinosa campagna per l'autonomia. Un importante capo dell'organizzazione di Al-Qaeda in Iraq sarebbe stato ucciso oggi da uomini armati a volto coperto. L'uomo, riconosciuto da testimoni oculari, sarebbe uno dei più importanti capi di Al-Qaeda e membro del consiglio della consulta dei Mujahideen, l'organizzazione che raggruppa oltre 6 sigle terroristiche, tra cui quella fondata dal terrorista giordano Al-Zarqawi. Al momento le autorità irachene non confermano né smentiscono la notizia. Ancora incertezza sulla sorte dei 2 italiani rapiti in Niger. Ieri sera uno di loro per telefono aveva detto che erano stati liberati. Sempre ieri sera però la Farnesina ha sottolineato che la vicenda non si è ancora risolta. Le 5 navi italiane dirette in Libano proseguono la loro fase di avvicinamento con un'andatura regolare. Sembra confermato, salvo imprevisti, l'arrivo al largo di Tiro nella giornata di domani. Il segretario dell'ONU Kofi Annan prosegue il suo tour diplomatico in Medio Oriente. Ieri a Gerusalemme Annan è tornato a chiedere la rimozione del blocco imposto da Israele al paese dei Cedri e il rilascio dei militari rapiti da Hezbollah. Il segretario in Giordania da ieri sera si sposterà oggi in Siria. Poi la sua missione proseguirà in Arabia e da sabato in Iran. Intanto questa mattina si è aperta la conferenza dei paesi donatori per il Libano. Circa 60 paesi e organizzazioni internazionali sono riuniti a Stoccolma per aiutare il Libano a risollevarsi dopo i 34 giorni di guerra tra Israele e Hezbollah. L'obiettivo ambizioso è quello di raccogliere i 500 milioni di dollari chiesti dal governo di Fuad Signora per far fronte alle esigenze di ricostruzione immediate. Sarebbero oltre 130.000 le abitazioni distrutte o danneggiate nel conflitto. La parte del leone la farà l'Unione Europea, che ieri ha annunciato la donazione di 42 milioni di euro. Bruxelles aveva già stanziato 150 milioni per i primi aiuti. In ogni caso, le donazioni saranno soltanto un primo passo verso il ritorno alla normalità in Libano. Secondo alcune stime, i danni provocati dalla guerra ammontano a 15 miliardi di dollari. Giuseppe Di Marco, GR24, Il Sole 24 Ore. L'esercito israeliano si è ritirato da una roccaforte palestinese nella striscia di Gaza dopo un'incursione durata 6 giorni. Secondo fonti palestinesi sarebbero 200 i morti negli ultimi 2 mesi a seguito dell'offensiva lanciata dopo il rapimento di un caporale dell'esercito israeliano. Ieri il segretario generale delle Nazioni Unite Kofi Annan ha invitato Hamas a rilasciare il militare. Al termine di un incontro con il presidente palestinese Abu Mazen, il segretario dell'ONU ha auspicato la nascita di uno Stato indipendente palestinese. Altri 300 clandestini sono sbarcati nelle ultime ore alle Canarie, portando a circa 5.000 il numero degli arrivi nel solo mese di agosto. E torniamo in Italia. La bravata di un gruppo di passeggeri è costata 9 ore di ritardo a un traghetto della Sardinia Ferries, che viaggiava con quasi 2.000 passeggeri dal porto di Livorno a Golfo Aranci, in Sardegna. Nella notte alcuni viaggiatori sono saliti sul ponte della nave e hanno sganciato 3 scialuppe. Qualche ora dopo, accortosi di quanto era accaduto, il comandante ha quindi deciso di tornare indietro per recuperare le imbarcazioni di salvataggio. Sono in corso indagini per identificare gli autori della bravata. L'Etna, il vulcano più grande d'Europa, ha ripreso da questa mattina un'attività eruttiva di carattere esplosivo. L'eruzione non causa al momento nessun tipo di problema. Un terremoto di magnitudo 4,8 della scala Richter ha fatto oscillare i grattacieli di Tokyo, ma non ci sarebbero ferimenti o danni. Il treno veloce che collega la capitale a Yokohama è stato sospeso per precauzione. È morto Glenn Ford, interprete di moltissimi film di grande successo. Ford è morto nella sua casa di Beverly Hills a 90 anni. Ieri a Venezia si è aperta la 63esima edizione del Festival del Cinema. A dare il via alle proiezioni, che dureranno fino al 9 settembre, il film The Black Dahlia di Brian De Palma. La pagina sportiva in chiusura. È convocato alle ore 15 il consiglio di amministrazione della Juventus, che deciderà se ritirare il ricorso al TAR contro la sentenza della Corte federale che ha retrocesso la società bianconera in Serie B con 17 punti di penalizzazione. La marcia indietro è data per scontata dopo l'incontro di ieri tra la società, il CONI e la FIGC. Il ritiro del ricorso al TAR darebbe via libera all'arbitrato del CONI, riportando la questione all'interno della giustizia sportiva. Il Milan ha acquistato Ricardo Oliveira dal Betis Siviglia. L'attaccante ha firmato un contratto di 5 anni. La società rossonera ha anche risolto consensualmente il contratto con Amoroso. E questa era la nostra ultima notizia. Termina qui questa edizione, curata da Enrico Pagliarini, in regia Valeria Bernardi, in studio Valeria De Rosa. Prossimi aggiornamenti alle 13.30. Io volevo fare una considerazione sul concetto di democrazia, perché mi sembra che non mi tornano i conti. Tengo a precisare che le religioni sono qui per servire l'umanità, ma non per complicarci la vita. E lei sta conducendo una bellissima trasmissione che trasforma ogni passante in un opinionista. Manca poco, pochissimo, dal 4 settembre di nuovo in diretta con voi. Giuseppe Cruciani, ogni sera dalle 19 alle 21, La Zanzara. Radio 24, la passione si sente. Vuoi un futuro pieno di energia per la tua carriera? Entra con Multiutility nel business dell'energia, del risparmio energetico e dell'ambiente. Stiamo cercando agenti e partner commerciali molto speciali per una missione speciale: portare competitività alle aziende italiane. Vai su www.multiutility.it e diventa un professionista certificato dell'energia. Scegli per la tua carriera un futuro pieno di energia. Che strada fa? Sulla A22 del Brennero ci sono 4 km di coda tra Nogarole Rocca e Verona Nord verso il Brennero per un incidente tra mezzi pesanti. Coda all'interno di un cantiere sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Montopoli Valdarno e Ponte d'Era Est verso Livorno. Il traffico rimane poi intenso sulla 14, l'Adriatica, rallentamenti tra Fermo e Civitanova Marche e proseguendo verso l'Autosole tra Castel San Pietro e il Bivio per la 13. Per il momento è tutto, noi ci risentiamo tra mezz'ora. Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Buongiorno da Lara Vecchio, bentornati ad un nuovo appuntamento con Voci d'impresa. Oggi vi raccontiamo una storia, quella di Renzo Rossetti, 81 anni, fondatore dell'azienda calzaturiera Fratelli Rossetti, uno dei marchi italiani che tengono alto il nome della moda del nostro paese nel mondo. Questa storia comincia quasi per caso in un piccolo paesino del Veneto, Sanguinetto. Qui c'è un fatto curioso che non si può dire il destino, le combinazioni, eccetera, che mio padre faceva il calzolaio, io praticamente non l'ho conosciuto perché è morto che avevo 6-7 anni. Mio fratello maggiore faceva il calzolaio e viveva a Sanguinetto, dove noi siamo praticamente nati, eccetera. Siamo venuti a Parabiago perché l'altro mio fratello, tramite un suo amico, anche lui di Sanguinetto, che si era trasferito, ha aperto un negozio di parrucchiere a Parabiago, che è un centro calzaturiero di eccellenza, proprio da sempre, di scarpe di alta qualità da donna. Stiamo parlando io avevo 13 anni e sono del 25 e così è stato un caso che io sia entrato nelle scarpe. Sono entrato nelle scarpe perché a Parabiago si facevano scarpe. La mia infanzia è quella di maggior parte delle persone di quell'epoca, molto poveri, un paese dove appunto nel quale siamo emigrati. Era tutto molto, molto, molto, molto semplice, molto povero, tanto è vero che io sono l'anno prima di trasferirci a Parabiago, ho lavorato, avevo 12 anni, anche queste cose qui non so come mai, perché era una fabbrica abbastanza importante, un zuccherificio. Io ho lavorato in questo zuccherificio, facevo i turni di notte e compagnia bella, ed era tutto abbastanza normale, non è che ci sentissimo condannati a delle cose fuori dal normale, insomma. Direi che i sacrifici abbiamo avuto dopo, quando abbiamo cominciato con l'azienda. Era un'infanzia normale di quei tempi, di quei luoghi, dove tutto era il minimo, insomma, non c'erano aziende, non c'era niente. Ho provato tutto e tutto questo naturalmente lo trovo in senso molto positivo, perché tutto quello che poi questo cambiamento anche di vita e quindi un certo benessere l'ho apprezzato di più di altre persone che invece hanno avuto la fortuna di trovarsi in una situazione diversa. I sacrifici insegnano a non sbagliare, a stare attenti, insegnano a fare le cose con molta economia, a non sprecare, non rischiare mai di tornare indietro. Insegnamenti che restano dentro, retaggio di una guerra che ha costretto anche Renzo Rossetti, come tanti altri a quel tempo, a ricominciare da zero. Io ricordo la fame, innanzitutto, e quindi, vabbè, io tra l'altro ho avuto non fatto il militare per insufficienza toracica. Io ho sempre pensato che fosse perché non mangiavo abbastanza. Sì, bombardamenti di Milano, queste cose qui, ma trasferimento all'Econ, trasferito il nostro ufficio dove io lavoravo, l'ho trasferito all'Econ. Periodo bello, lago, Fiandre Resinelli. Dopo la guerra cambia tutto. L'incontro di Renzo Rossetti con la sua strada è quasi casuale. Nessuna pianificazione, solo la necessità di inventarsi un lavoro e la fortuna di una creatività che, insieme a grandi sacrifici, lo ha portato a trasformarsi nell'imprenditore che oggi guarda indietro, seduto sul divano della sua casa al lago, e si commuove man mano che le immagini del passato scorrono nella sua mente. Poi siamo arrivati a Parabiago, sono andato a lavorare alla fabbrica, allora c'era la famosa fabbrica di biciclette Legnano, mi ricordo il lavoro che facevo, era di carteggiare le bacchette dei parafanghi. Poi sono andato a scuola serale perché io ho studiato, ho fatto solo elementare, poi sono andato a scuola serale a Parabiago, presidente di questa scuola, un'officina, ha capito che io ho una buona mano a disegnare, eccetera. Sono entrato da lui prima in officina e poi a fare piccolo disegnatore. Così. Poi sono andato avanti come disegnatore a Milano. Durante la guerra ci siamo beccati i famosi bombardamenti. Poi sempre per questo fatto delle scarpe di Parabiago, eccetera, il papà di un mio amico faceva il calzolaio da solo, faceva anche addirittura le scarpe da ciclista. E lì con questo mio amico ci siamo messi, verso la fine della guerra abbiamo cominciato a trafficare, a fare qualche cosa. E questo inizio nelle scarpe da ciclista ha portato poi a sviluppare vari generi. Siamo arrivati, poi lui si è staccato, era tutto talmente difficile che lui ha preferito venirne fuori, e il genere che sembrava ci desse più soddisfazione anche economica erano le scarpe da pattinaggio e da hockey. Nel momento in cui cominciava a nascere qualche palazzo del ghiaccio, eccetera, poi il tutto si è bloccato lì e abbiamo dovuto cambiare direzione completamente, cioè andare sulle scarpe normali. Facevamo molta fatica perché le mie esperienze precedenti non sono servite a niente, bisogna ricominciare tutto da capo. Cioè, avrò avuto poco più di 20 anni. Se siamo avvalsi di una specie di stilista della zona per un anno o poco più, poi ho cominciato a capirci qualche cosa, da quel punto non ero più d'accordo con lo stilista. In quella fase è nato più che altro la ricerca del prodotto, della qualità, e ho avuto la fortuna di imboccare una strada che si è rivelata molto giusta, cioè quella dei calzolai su misura, dei calzolai molto bravi. Ho capito una cosa importante, e cioè che tutto quello che faceva parte dell'eccellenza del loro prodotto era frutto di grande esperienza, nel senso che loro, la scarpa che facevano su misura per il cliente, poi loro se la ritrovavano per risuolarla, e quindi hanno perfezionato tutto il loro prodotto attraverso l'esperienza, arrivando anche a dei dettagli di linea che distinguevano dal prodotto industriale, che erano dati dall'esperienza e quindi dalla funzione. Quindi sono partito da cercando di conoscere il top, e quindi ho fatto un percorso completamente al di fuori di quello che è l'industria calzaturiera. Per dire, la diversità, la scarpa su misura ha una scarpa che deve andare bene quasi a tutti, insomma, quindi c'è un'approssimazione. Quando abbiamo cominciato a fare le scarpe in serie per venderle ai commercianti, abbiamo fatto un prodotto differente da quelli che c'erano in commercio, e questo ci ha favorito perché ci siamo distinti in un certo qual modo. Il fatto di non aver mai lavorato in una fabbrica di scarpe mi ha aiutato per iniziare in maniera diversa, a fare delle scarpe differenti. Se ci fosse stata la possibilità di tornare indietro, magari può darsi che a un certo momento si sceglieva di tornare indietro, ma avevamo preso una strada che per forza bisogna, non c'erano alternative. E nel contempo cominciavamo a avere anche delle soddisfazioni. Quindi ci siamo trovati a cambiare completamente quello che era il prodotto in commercio all'epoca. Io ho cominciato da solo e mio fratello è entrato in azienda molto più tardi, perché lui, dopo aver fatto il parrucchiere, fatto il rappresentante di una tipografia, aveva la sua attività e quindi in un certo momento però ci ha dato anche una mano, quattro soldi che aveva anche lui, e quindi si è trovato un socio tra l'altro che siamo sempre andati molto d'accordo. Trovare un inizio vero e proprio è molto difficile, nel senso che in primo tempo facevamo fare qualche cosa in giro, poi abbiamo messo un piccolo laboratorio. La piccola azienda è stata quando abbiamo cominciato le scarpe da pattinaggio. C'era già questa inclinazione a fare le cose bene, al meglio, e facevamo le scarpe per la signora Brigatti, che era un negozio di grande eccellenza. Le portavo giù io, e lei, che aveva capito la situazione, mi faceva l'assegno che mi serviva per pagare gli operai. Quindi questi particolari qui non si dimenticano certamente. Preoccupazioni e soddisfazioni quando si riusciva a far fronte ai propri impegni. Ci fermiamo per pochi minuti, torniamo però tra poco per continuare a raccontarvi la storia di Renzo Rossetti. Che borsa fa? Borsa in lieve flessione a metà giornata in attesa delle decisioni della BCE sui tassi, anche se la maggior parte degli analisti dà per scontato che l'istituto di Francoforte opti per uno status quo sul costo del denaro. Piazza Affari, insieme agli altri listini europei, è peggiorata sulle ultime battute anche per i timori alimentati dalle parole del presidente iraniano Ahmadinejad, che ha dichiarato che l'Iran non rinuncerà mai al nucleare. Parigi arretra dello 0,25%, Londra dello 0,22%, Francoforte dello 0,26%. Amsterdam scende dello 0,15%, mentre a Milano il MIB registra un calo dello 0,16% e l'S&P MIB dello 0,23%. A Piazza Affari hanno ripreso a correre le azioni del Monte dei Paschi di Siena dopo la battuta dal resto dei giorni scorsi. I titoli segnano un progresso dello 0,9%, mentre il mercato si interroga sul futuro dell'istituto e si chiede se sia possibile un'aggregazione con Capitalia. I titoli della banca romana peraltro cedono un 2% circa. Dopo la buona performance delle ultime sedute, perde terreno ST sotto la pressione di realizzi, il titolo cede l'1,6%. In controtendenza, anche se con un rialzo marginale, Telecom Italia su dello 0,1% e anche la controllante Pirelli su dello 0,2%, mentre è scattato il conto alla rovescia per l'incontro che si terrà la prossima settimana fra i vertici della compagnia telefonica e il magnate australiano Murdoch. Fra i titoli migliori sono in evidenza quelli di Targetti su del 4,7%. Da Radio Cor, Isabella Tasso per Radio 24, il Sole 24 Ore. Tornati da Aquaria, il centro benessere termale a Sirmione, vedi che qualcosa in tuo marito non va. Provi a sistemare le cose e compri un materasso ad acqua, ma lui... Non è come il mio lettino effervescente. Installi l'idromassaggio e lui... Ma io voglio acqua termale, con vista sul lago di Garda. E allora? Allora si torna ad Aquaria. Al centro benessere Aquaria ti aspettano piscine termali con vista lago, palestra e giovedì siamo aperti fino a mezzanotte. Aquaria, benessere in tutti i sensi. Per prenotare 030 91 60 44. Allora. Allora Daniele, raccontaci un po' dei concerti di questa estate. Quello di Ancona, che si svolge in luglio quest'anno dal 14 al 23. Concerti, notizie e curiosità dal mondo del jazz. Sono Luca Conti, vi aspetto tutti i sabati alle ore 21 su Radio 24 con Jazz 24. GR 24, il sole 24 ore. Ancora un buon pomeriggio dalla redazione, aggiornamenti delle 13.30. È arrivata anche da Kofi Annan, segretario generale delle Nazioni Unite, la denuncia dell'uso da parte di Israele di bombe proibite nella guerra in Libano. Gli ordigni a frammentazione. Annan ha precisato di aver chiesto al governo israeliano le mappe per la localizzazione di tali ordigni. Il vice premier israeliano Shimon Peres ha ringraziato l'Italia per l'accelerazione impressa alla missione internazionale UNIFIL che sarà dispiegata nel sud del Libano. L'Italia sta svolgendo un ruolo importante in Medio Oriente, ha dichiarato prima del suo incontro a Palazzo Chigi con il presidente del Consiglio Romano Prodi e il ministro degli esteri Massimo D'Alema. E Romano Prodi lascerà tra qualche minuto il Consiglio dei Ministri per incontrare Peres. Il ministro Tommaso Padoa-Schioppa sta ancora illustrando la manovra finanziaria all'esecutivo. È esplosa una bomba al passaggio di un convoglio di diplomatici britannici nel quartiere Mansour a Baghdad. Secondo fonti dell'ambasciata britannica, i funzionari e i loro agenti di scorta sono tutti illesi. Nell'attentato sarebbero però rimaste ferite 2 persone. La cronaca italiana, al no della ex amante a cui aveva chiesto di seguirlo a casa, si è armato di un'ascia e ha fatto irruzione nella sua abitazione, ferendo lei e il marito. È successo a Terlizzi. L'aggressore è un 38enne arrestato dai carabinieri dopo una violenta colluttazione, che sono riusciti a disarmarlo non senza difficoltà. Nella sua abitazione sono state poi trovate alcune pallottole per pistola, un bilancino di precisione e altro materiale che ora è al vaglio degli investigatori. I due coniugi sono stati medicati in ospedale, giudicati guaribili in 2 settimane. Seconda giornata della 63esima edizione del Festival di Venezia. A dare il via ieri alle proiezioni che dureranno fino al 9 settembre, il film The Black Dahlia di Brian De Palma. Il film però non ha convinto tutti i fan del regista. Senza appello il commento di Mario Monicelli. È un polpettone, ha detto, è in maniera straordinaria, con una serie di attori sicuramente di grande qualità, la fotografia, la scenografia di una professionalità suprema, soltanto che è una specie di fumetto. Ha detto Monicelli, dove si accavallano sparatorie, tradimenti, gelosie, morti, resuscitazioni, insomma, sfiora la farsa. Questa era la nostra ultima notizia, gli aggiornamenti alle 14. Fai da te Agip dal 1 agosto al 10 settembre. Con tutti i carburanti accumuli il doppio dei punti da convertire in sconti carburante, punti Coop o Vodafone One. Perché chi fa da sé fa per due. Regolamento dai gestori che aderiscono all'iniziativa. Dai, vieni all'Agip! Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Proseguiamo il racconto della storia di Renzo Rossetti. Dopo le prime esperienze con scarpe per ciclisti e da pattinaggio, finalmente arriva il momento e la possibilità di dare libero sfogo alla creatività. Ma la prima scarpa che mi ricordo sicuramente sono le scarpe a punta dell'epoca, pur essendo differenti di quelle in commercio, però la caratteristica era quella della punta, che non c'entra niente con le scarpe a punta di questi anni. Questo di questi anni è un periodo che non c'è mai stato, cioè delle scarpe lunghe. Le scarpe non erano lunghe. Le persone non volevano far vedere i piedi lunghi. E quindi era questa scarpa pressappoco nello stile del momento solo italiano, tanto è vero che gli italiani si riconoscevano dalle scarpe quando andavano all'estero. E quindi questa prima scarpa che io ricordo è questo genere, però già trasformato dal suggerimento del calzolaio, perché quando abbiamo cominciato a fare le scarpe da uomo abbiamo preso subito una strada diversa da quella industriale, insomma. E insomma un negozio di scarpe da uomo da solo era un po' dura, e quindi abbiamo cominciato a fare una scarpa prendendo gli spunti dal maschile, scarpa col tacco medio-basso, con qualche accenno alla scarpa d'uomo, che noi cerchiamo di mantenere perché è da lì che siamo nati. E alla fine, insomma, c'è sempre chi ama la scarpa di questo genere. È proprio in questo frangente che nasce lo stile Rossetti. L'azienda decolla, si fa conoscere per la grande qualità e l'impresa prende forma. Mi sono fatto aiutare, nel senso che magari qualche operaio di sera veniva a lavorare o il sabato a fare qualche cosa, perché noi non avevamo i mezzi di avere specialisti. E guarda caso, l'azienda più importante dove noi abbiamo tinto, soprattutto per sopperire a certe manchevolezze di personale, eccetera, il figlio lavora da noi, insomma, tutte aziende che non esistono più. Non avevamo modelli di riferimento, abbiamo preso un percorso che al di fuori di quello che erano le aziende dell'epoca. Non so, per dire, la comunicazione, una cosa che è venuta molto dopo, le uniche manifestazioni di moda maschile erano quelle di Sanremo. Noi abbiamo cominciato a partecipare, abbiamo cominciato a farsi conoscere con un po' di pubblicazioni. La mentalità dei nostri colleghi era quella di no, che avevano il terrore che pubblicasse i loro modelli, che li copiassero. Un mondo completamente all'inverso, perché noi si cambiava sempre, insomma, si andava avanti. Quando abbiamo fissato gli obiettivi, che allora era un'azienda, non siamo mai riusciti a raggiungerli, quindi era il modo di fare le cose al meglio, con molto impegno. È una cosa naturale, spontanea, trovarsi sempre in prima linea su tutti i problemi, seguendo un po' tutto, insomma, il nostro senso di perfezionismo. Ci siamo resi conto che l'avevamo applicato un po' in tutto, di conseguenza avevamo raggiunto un ottimo rapporto qualità-prezzo. Il senso dell'economia l'abbiamo portato nel modo di fare le cose nel modo più razionale. Siamo stati forse gli unici nel nostro settore a applicare gli incentivi al personale. Tanto è vero che poi anche i vari nostri collaboratori, tra cui il direttore che è andato al calzaturificio di Varese, che è l'azienda più importante che c'era all'epoca, non è riuscito a applicarli. Forse non c'era la testardaggine che avevamo noi, e li abbiamo tuttora. E anche quando ci sono state dei problemi sindacali e compagnia bella, non sono mai riusciti a togliere, perché i dipendenti capivano che avevano interesse anche loro, insomma. Siamo riusciti a ottenere una produttività che ci ha permesso un buon rapporto, insomma. Un altro punto dove siamo stati all'avanguardia è che, facendo un prodotto interessante, i clienti venivano da noi, per cui costi commerciali, rappresentanti, non ne avevamo. Di conseguenza, questo ci ha permesso anche di investire nella comunicazione, cioè quello che era il costo commerciale è passato alla comunicazione. È un altro punto dove noi ci siamo impegnati tantissimo, è stata l'informatica. Siamo stati nel nostro settore i primi che hanno fatto delle applicazioni interessanti, tanto è vero che le ho sempre ottenute gratis, perché poi se ne servivano anche loro per cederli, venderli, l'Olivetti per dire all'epoca. Quello di Rossetti è ormai un nome noto negli ambienti della moda, anche oltreoceano. Renzo, nella sua semplicità che ancora oggi lo contraddistingue e contraddistingue il suo stile di vita, ancora si stupisce di tanto successo. Le prime esperienze in America, senza una parola d'inglese, naturalmente. Intorno agli anni 70 abbiamo aperto il negozio sulla Madison, 78. Però io ho cominciato, su invito anche, ad andare prima. Ricordo che forse, perché lì c'era un giornale, Football News. Football News ha saputo che io andavo in America, perché c'erano corrispondenti in Italia. Morale, l'associazione di fabbricanti americani avevano un convegno al Plaza. Mi hanno bloccato e mi hanno invitato a parlare a questo convegno di tutti i fabbricanti di scarpe italiani. Si figuri, io timido, senza una parola d'inglese, col traduttore, non le dico. Uno dei fabbricanti più importanti ha voluto assolutamente che andassi nella loro azienda a visitare la loro fabbrica. Arrivo là, la prima cosa che mi fanno vedere un loro archivio dove metà erano tutte scarpe nostre e se ne facevano un vanto. Loro a Firenze avevano un loro corrispondente che era incaricato di acquistare tutte le scarpe. Da noi non sarebbe carino riconoscere una cosa del genere, mentre loro è stato un riconoscimento simpatico. Comunque tutte cose che mi hanno meravigliato, ovviamente, perché noi nella nostra modestia di fare le cose non pensavo. Oggi l'azienda conta circa 300 dipendenti, 70 milioni annui di fatturato e 27 negozi nel mondo gestiti direttamente. Un impero che comincia a fare gola a tanti. In tempi recenti, tutta questa frenesia dell'acquisizione, praticamente fatto Piazza Pulita, ma non ci sono più aziende private di scarpe, lo stesso Pollini è stato assorbito. Anche noi abbiamo avuto varie offerte, tendevano sempre ad assorbire nel tempo, di assorbire completamente l'azienda. I miei figli per primi si sono rifiutati. È una scelta naturale, proprio, che non ha richiesto conflitti in famiglia, assolutamente. E rinunciando anche a un periodo, un primo periodo di grande sviluppo, perché erano sempre interessati a portare avanti il discorso Fratelli Rossetti, però tutti, Armani compreso, tutto volevano diventare addirittura acquisizione completa dell'azienda. Beh, l'incontro è venuto tramite il suo direttore, dove loro erano più interessati alla produzione, praticamente. L'interesse nostro è quello di appoggiarsi a un'azienda molto più strutturata della nostra per svilupparci, perché noi godiamo di un'ottima reputazione. Abbiamo i mezzi, da anni abbiamo avuto i mezzi per svilupparci notevolmente, mentre siamo rimasti sempre abbastanza tranquilli, per scelta, forse anche per mentalità un po' di imprenditore di prima generazione, capisce? Cioè anche investimenti, organico, tutte queste cose qui, ragioni per cui poi in certo momento ho detto ai figli, andate avanti voi. C'è un momento preciso in questa lunghissima carriera in cui Renzo Rossetti capisce di essere diventato un vero imprenditore. Questo è avvenuto quando abbiamo costruito, chiamiamo il primo stabilimento, cioè la fabbrichetta di Via Gaio di 500 metri quadri, e siccome non avevamo dei mezzi, avevamo il privilegio che, avendo sempre avuto bisogno delle banche anche per piccoli importi, noi siamo sempre riusciti a mantenere i nostri impegni. Da questo è nata la fiducia della banca. Per forza dovevamo costruire questo piccolo stabilimento. ci siamo indebitati, questo spazio, questa possibilità di svilupparci ci ha consentito di far fronte ai nostri impegni. E quindi questa esperienza ci ha dato poi la forza di fare la vera fabbrica, di rischiare di più, perché avevamo capito che investendo in spazio, in attrezzature, eccetera, eccetera, consentiva anche di impegnarci più di quanto era nel nostro carattere. Quindi lo stabilimento di Via Cantù, dove siamo attualmente, l'abbiamo fatto nel 68. Mi ricordo del primo marchio, quello sì, perché poi da lì è nato il nostro vero marchio, e dietro questo cambiamento c'è tutta una storiella. Questo aneddoto ve lo raccontiamo tra poco, dopo le informazioni per chi viaggia. A più tardi. Che strada fa? Sulla 22 del Brennero ancora 4 km di coda tra Nogarole Rocca e Verona Nord verso il Brennero per un incidente tra mezzi pesanti. E poi le code all'interno di un cantiere sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Montopoli-Valdarno e Ponte d'Era Est verso Livorno. Attenzione infine, perché sulla Roma-Civitavecchia la 12 la visibilità è ridotta da un incendio tra Civitavecchia Nord e la Statale 1, l'Aurelia. Per il momento è tutto, Che strada fa torna tra un'ora. Buonanotte. Buonanotte. Sono un po' scomodo, mi passi un altro cuscino? Sì, va bene. Quale vuoi? Dammi Comprendere la fisica, che è abbastanza alto, e dammi pure l'antologia di letteratura italiana, che ha la copertina morbida. I libri di testo della scuola, mai così comodi. Se vai sul sito poste.it, arrivano direttamente a casa tua e la spedizione è gratuita. Il servizio è disponibile nei capoluoghi di provincia. Per saperne di più vai su www.poste.it o chiama gratuitamente l'803-160. Poste Italiane. Sarà la più importante economia del pianeta, sta diventando la più importante occasione per l'Europa, ma è già sicuramente la più temuta sfida per l'Italia. È la Cina. Dal prossimo 12 settembre il presidente del Consiglio Prodi, accompagnato da 7 ministri, dai presidenti di Confindustria e ABI e da 200 imprenditori, farà tappa a Nanchino, Canton, Shanghai e Tianjin, fino all'ultimo conclusivo incontro, lunedì 18, a Pechino con i leader della Repubblica Popolare Cinese. Radio 24 seguirà passo per passo l'intero avvenimento. Sono Sebastiano Barisoni, vi aspetto per capire insieme se la Cina è veramente un'opportunità. Radio 24, la passione si sente. Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Di nuovo insieme per l'ultima parte di Voci d'impresa. Renzo Rossetti, prima della pausa, ci stava raccontando la storia del marchio Fratelli Rossetti. Nel frattempo avevamo aperto il negozio a New York. Abbiamo conosciuto un famoso designer italiano che viveva in America. Siamo andati invitati da Massimo a vedere il suo studio, Diego si è entusiasmato e da lì è nata il suggerimento di modernizzare il marchio. Nel modernizzare il marchio c'era la decisione da prendere se chiamarla ancora Fratelli Rossetti o chiamarla Rossetti. Se non che Luca, che era un bambino, che ha sentito questi discorsi, certamente ha detto: ma perché non chiamiamo ancora Fratelli Rossetti? Noi figli siamo fratelli. Da lì si è fatto avanti il primo accenno alla seconda generazione. Mi sento molto in colpa perché io veramente non, normalmente un padre vive di più questo fatto dei figli, eccetera. E mentre io ho dovuto trascurare tante cose senza rimpianti, ma devo dire che se devo fare una colpa al mio lavoro e al mio impegno è quello che ho fatto, solo quello praticamente. Sì, Diego ha interrotto l'università e Luca ha cominciato a lavorare che faceva ancora l'università. Almeno lui, insomma, si è laureato. Come inserimento loro, insomma, non è stato molto razionale, tutt'altro. Sì, mi fanno un po' la colpa di un padre dittatore, ma insomma, anche il fatto che Luca, quando è cominciato a lavorare, ha cominciato in ufficio. Io ho ceduto la mia scrivania nel mio ufficio. C'è anche un grande tavolo che serviva per le riunioni. Io mi sono spostato sul tavolo e Luca ha preso la mia scrivania. Questa mia presenza continua l'ha un po' condizionato, nel senso che ogni tanto mi chiedo se non abbia scelto questa strada, preso questa strada più che scelta, non perché magari sentisse la vocazione mia, perché io sono una persona di produzione soprattutto, magari ho avuto fiuto anche su altri settori, necessità dell'azienda. Quindi l'inserimento del Luca è stato un po' forzato, forse, come scelta aziendale. Diego, Dario e Luca, i suoi figli, il suo orgoglio, la garanzia di continuità di un'azienda che ha richiesto una vita di sacrifici. Ma dietro a tutto questo c'è anche una donna molto forte, sempre in prima linea, la moglie Lisetta. Mia moglie, l'ho conosciuta, avevo 25 anni e quindi e poi mi sono sposato, che ne ho tipo 28. Andavamo, ci si incontrava andando in treno a Milano, io appunto lavoravo a Milano e poi per caso qualche anno fa mi sono trovato un nipote del mio titolare nel consiglio di amministrazione della Banca di Legnano, quindi ho cambiato un po' le cose, anzi ho ricordato. Non gli ha aiutato nelle pubbliche relazioni, perché durante appunto le uniche sfilate di moda maschile che erano fatte, organizzate dai lanieri, allora non c'erano le fabbriche di confezione, c'erano i vari Cerutti e compagnia bella che erano dei lanieri. In quell'epoca abbiamo per caso conosciuto Franco Savarelli, che era molto bravo, e l'ha introdotta. Lei, devo dire, ancora adesso, quando ha già la presentazione a Milano, due volte all'anno, la presentazione alla stampa, è sempre presente. Non è sempre stato piuttosto negato queste cose. Ancora adesso non vado alla presentazione, è vero? Credo di non essersi mai andato, ma non lo so, non sono negato anche a interviste, cose del genere. Anche timido, oltre a non interessarmi. È un controsenso, eh? È un controsenso, quindi tante volte penso che avrei potuto fare anche un altro mestiere, perché richiedesse del buon gusto, richiedesse il perfezionismo, perché ad esempio anche nel vestirmi sono proprio per me una preoccupazione andare a comprarmi qualche cosa. Una vita nella moda, seppur defilato rispetto alle luci della ribalta, per scelta, più stilista o imprenditore? No, soprattutto imprenditore, perché un imprenditore poi sono talmente cose, tante le cose da fare in azienda, che non c'è più neanche il tempo di fare lo stilista. Un certo buon gusto serve per fare delle scelte. Nel nostro settore c'è tutta una schiera di stilisti specializzati di scarpe che più o meno fanno i consulenti o addirittura vendono un tanto per modello, eccetera. Noi abbiamo avuto la presunzione di fare tutto per nostro conto, non tenendo conto che eravamo, specialmente nella donna, non avevamo una grande esperienza. Quindi avevamo preso un consulente dell'abbigliamento, però non aveva un'esperienza specifica. Di conseguenza non era neanche tanto ben al corrente delle forme, di tutto quello che era l'evoluzione, e questo per un po' di anni è stato un po' d'intralcio lo sviluppo, tanto è vero che poi abbiamo dovuto adeguarci con degli stilisti di professione specializzati nelle scarpe. I figli possono fare da soli, ha pensato a un certo punto nonno Rossetti, che guarda orgoglioso il tavolino ai piedi del divano con le fotografie di una schiera di nipotini sorridenti. È tempo di riposo, ma non è così semplice abbandonare la storica scrivania di Parabiago. 2003 ho preso contatti con un consulente specializzato nel passaggio generazionale. Passato quasi 2 anni, io non andavo più in ufficio. Poi però a un certo momento mi hanno chiesto di partecipare alle riunioni. Forse questo periodo che ho fatto a casa, dove sì, lavoravo, mandavo messaggi, facevo, ho postato anche dei lavori interessanti, mi hanno chiesto di ritornare. In questo mio ritorno ho cambiato completamente mentalità, e cioè dico sì, ritorno, però voglio dedicarmi agli sviluppi. Abbiamo cominciato a entrare tutti nell'ordine di idee di avere direttore del retail, direttore commerciale, e abbiamo recuperato il nostro direttore di produzione che ci aveva portato via Parada. Fortunatamente, faticosamente, siamo riusciti a riportarselo in azienda. C'era partito per 5 anni addirittura, erano molto bravo. Abbiamo avuto anche la fortuna che la moglie ha voluto far ritornare a casa il marito. Ci ha dato una mano sua moglie. Perché è veramente un peccato, perché sono i mezzi per svilupparsi. Tanto è vero che adesso con il direttore del retail abbiamo fatto un piano di aprire meno 3 negozi ogni anno, insomma. Noi ne abbiamo 27-28 per portare un impulso nella distribuzione, eccetera. Il primo giorno è stato uno shock, perché io ero il primo che andava in azienda al mattino. È stato in 2 fasi. Uno, chiamata a mezza pensione, andava al mattino, non andava più il pomeriggio. Poi, siccome ho detto dalla fine dell'anno io non vengo più, ho mantenuto l'impegno. E il primo giorno è stato un po' dura, perché c'è stato un po' di sbandamento. Però mi sono reso conto poi che io continuavo a lavorare, perché mi veniva in mente 50.000 cose che si poteva migliorare, si poteva fare. Dalle ultime chiacchiere scambiate con il nostro ospite, l'elemento evidente è uno solo: la voglia a 81 anni di non fermarsi mai. Io, essendo una persona di fabbrica praticamente, non sapevo usare neanche la macchina da scrivere, alla bellezza di oltre i 70 anni, 73-74 anni, ed è stato nel periodo in cui sono rimasto a casa, mi sono fatto dare un portatile nel nostro centro. Mi hanno guardato tutti con una faccia strana, e lì ho cominciato a imparare a scrivere, e mi sono trovato benissimo per correggere, per archiviare. Tanto è vero che dopo un po' di tempo ho detto: ragazzi, ma mi avete dato una cosa, un cartoccio, era un fondo di magazzino. Ha capito che... E così mi era dato uno bello, funzionante, voglio vedere. E c'ho un archivio pazzesco dentro. E mi è servito anche per mettere giù i miei racconti della storia dell'azienda. Guai se non l'avessi avuto. Comunque, insomma, ce l'abbiamo fatta. Non guardo internet, ad esempio, non mi interessa, capisci? Io lo uso per scrivere, per il mio lavoro, per mandare i messaggi e via, insomma. Termina così la storia di Renzo Rossetti, un uomo che, come ama raccontare, è stato costretto a prendere troppo sul serio il suo lavoro, ma si illumina con un grande sorriso ogni volta che si sorprende ad osservare i suoi figli alle prese con il prezioso strumento che gli ha messo tra le mani grazie a una vita di lavoro. È tutto anche per questa puntata di Voci di Impresa. Da Lara Vecchio grazie per averci seguito e di nuovo una cordiale buona giornata. Che mare fa? Un buongiorno agli ascoltatori, il bel tempo torna sulla nostra penisola con sole e caldo che caratterizzeranno anche il fine settimana. Nelle prossime ore qualche nuvola solo lungo le coste della Puglia, ma senza piogge. Il clima sarà mite per il resto della giornata con massime intorno ai 26 gradi. Lungo le coste del centro-nord soffierà un vento da debole a moderato fino ai 15 nodi, mentre più a sud, sullo Ionio e sull'Adriatico, le raffiche raggiungeranno anche i 30 nodi, in attenuazione solo in serata, come il moto ondoso dei mari interessati. Acque fredde, temperature comprese ovunque tra